America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Si chiude un'altra settimana alquanto turbolenta per gli Stati Uniti d'America. Al centro delle notizie di questa settimana, direi, dobbiamo sicuramente collocare la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Devo dire, poi molti presidenti americani già andavano in visita in Israele, facevano incontri bilaterali a Gerusalemme, quindi di fatto la riconoscevano, però di diritto ancora non era successo. Ecco, su questo si continua a dibattere, si continuerà a dibattere, ci si domanda se non ci sia magari un qualche disegno per ora sconosciuto dietro questa decisione. Ce lo dirà questo soltanto il tempo. Ma direi che oggi non voglio soffermarmi di nuovo su questioni politiche, su evoluzioni che non hanno poi reali notizie se non interpretazioni, e vorrei invece parlare d'altro, di una storia straordinariamente interessante. Sentiamo. Lo sviluppo degli impianti di energia atomica sta diventando realtà in un numero sempre maggiore di paesi. Ecco, non so quanti di voi abbiano riconosciuto questa voce, immagino molto pochi, ma questa è la voce di Enrico Fermi, il grande fisico italiano, rivoluzionario fisico italiano, perché ha creato il primo reattore nucleare nel 1942 a Chicago, è stato il padre, se volete, della scienza nucleare. Ebbene, quest'anno a dicembre ci sarà il 75esimo anniversario proprio della creazione del primo reattore nucleare, da cui poi si è diramata tutta quella che è stata la scienza atomica nucleare, poi è stato anche l'inizio di quella che è stata poi la corsa anche alle armi nucleari. Fermi, tra l'altro, è un italiano che ha preso un biglietto di sola andata, perché lui a un certo punto lascia l'Italia, viene in America con la moglie, Laura Cappon, che era di origine ebraica. C'erano dei problemi con le persecuzioni in Italia nel 38, è proprio nel 38 che Fermi lascia l'Italia. Pensate, va a Stoccolma, dove riceve il premio Nobel per la fisica per lo studio, lo sviluppo, l'utilizzo dei neutroni lenti. Da lì poi va in America, dove si ferma. Ecco, c'è un libro su Fermi, e il titolo del libro è molto suggestivo, è The Last Man Who Knew Everything, è l'ultimo uomo che sapeva tutto, e l'autore di questo libro è David Schwartz. David Schwartz è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno David. Buongiorno, it's wonderful to be here. David, voglio farti ascoltare un altro estratto di Enrico Fermi. L'era atomica è sorta come risultato degli studi di vari scienziati in Italia, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Danimarca, in Germania e in altri paesi. E lo spirito di cooperazione continua nel mondo di oggi. Ecco David, qui abbiamo sentito Fermi, non abbiamo bisogno di aggiungere altro, che parla della cooperazione internazionale, l'importanza eccetera. Però c'è una storia, che è la storia del Salone dei Matematici a Roma, dove Fermi a un certo punto è stato incluso e c'è stato un passaggio di staffetta fra questi grandi matematici e una nuova generazione di fisici. È vero? Com'è la storia? Quando Fermi era all'università, i più grandi scienziati in Italia erano i matematici. La fisica era indietro. E furono i matematici i primi a notare Enrico Fermi e il suo genio. A Roma c'era un salone a casa di Guido Castelnuovo, uno dei grandi matematici del XX secolo, e vi invitarono Enrico Fermi, il quale divenne subito conosciuto tra i matematici e anche i loro figli. Uno degli invitati a questo salone era un ammiraglio italiano di nome Aurelio Capone, che vi portò sua figlia, Laura, e i due, Enrico e Laura, si innamorarono. Ecco, e com'è stato questo passaggio di staffetta fra i matematici e i fisici? I matematici italiani avevano fornito un contributo fondamentale alla fisica. Un signore di nome Tullio Civita Levi fu colui che insegnò ad Einstein la matematica che sta alla base della teoria della relatività. E stavano cercando qualcuno, un giovane fisico, che poteva dare alla fisica italiana un posto di rilievo nel mondo della fisica. E si rivolsero al preside del Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma, Mario Orso Corbino, un signore che nutriva molto interesse per questo progetto, che si prese cura affinché Fermi diventasse precisamente l'uomo che stavano cercando. Ecco, per cui c'è sempre un aspetto, come dire, familiare dietro la grande scienza, dietro le grandi storie. Ecco, voglio dirlo io, perché magari poi David non lo dice, ma dovete sapere che il padre di David Schwartz, Melvin Schwartz, ha avuto anche lui il premio Nobel per la fisica studiando i neutrini. I neutrini sono stati identificati proprio da Fermi. Quindi Fermi era un nome che in qualche modo apparteneva alla famiglia Schwartz. Com'era Fermi nella vostra famiglia? Che immagine c'era quando tuo padre parlava di Fermi? Quando crescevamo, Fermi era un nome che si sentiva spesso a casa, a causa del lavoro che stava portando avanti mio padre, che era collegato a quello fatto da Fermi a metà degli anni 30. Insomma, Fermi ha fatto molte scoperte importanti. Ciascuna poteva meritare un premio Nobel. Sì, ci sono almeno tre cose che ha fatto che secondo me sono degne di Nobel. La scoperta di ciò che si chiama la statistica di Fermi-Dirac, che ci consente di analizzare sistemi complessi grazie all'utilizzo della meccanica quantistica. C'è la teoria del decadimento beta, che è il modo in cui vengono creati i neutrini. E infine ci sono i neutroni lenti, ma fece anche molto altro lavoro. E sai, è una sfortuna che morì a soli 53 anni. Ecco, David, dicevo prima che Fermi in fondo ha preso un biglietto di sola andata. Noi abbiamo questa storia di italiani che prendono un biglietto di sola andata per l'America. Qual era il rapporto di Fermi con l'America? Fermi amava l'America. Venne negli Stati Uniti per la prima volta nel 1930 e se ne innamorò subito. Amava la poca pretenziosità, il poter essere informale, la mancanza di gerarchie prestabilite, il lavoro di squadra e amava anche i soldi che c'erano dietro la scienza. Quando si trasferì negli Stati Uniti, era molto interessato a diventare e a essere considerato americano. Appena capì che il suo nome si traduceva in Henry o Hank, volle che tutti iniziassero a chiamarlo Hank. Sfortunatamente, nessuno aveva intenzione di chiamarlo Hank. Ecco, per chiudere, il mondo oggi è turbolento. Fermi usava parole ottimistiche, non parlava della bomba atomica, non parlava dei rischi della guerra nucleare. E oggi abbiamo altri rischi, la Corea del Nord, il terrorismo. Ecco, come secondo te Fermi avrebbe vissuto quello che sta capitando oggi nel mondo e che messaggio avrebbe dato? Credo che Fermi sarebbe molto preoccupato dello stato attuale del mondo, dei pericoli e dei rischi, del rischio di una guerra nucleare sia di natura accidentale che intenzionale. In un consiglio segreto nel 1949, lui e numerosi altri scienziati consigliarono al governo americano di non procedere. Ovviamente il governo decise di andare avanti. Fermi poi prese parte comunque ai lavori, nonostante la propria opposizione, perché voleva essere considerato un patriota e essere parte del processo scientifico. Ma credo che sarebbe molto preoccupato per come stanno le cose oggi e credo che sarebbe anche scontento del fatto che ancora non abbiamo trovato un modo sicuro di sviluppare e sfruttare l'energia nucleare e la tecnologia nucleare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, ho David Schwartz con me sempre ai microfoni di America 24. David! Sting's song about the Cold War, The Russians. Sting, The Russians! In Europe, I'm America, there's a growing feeling of a steel. To respond to all the threats in the rhetorical speeches of the Soviets, Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.